Ehi, fra, butta quella merda. No, guarda no. Che sei su una mala strada. Ma che cazzo vuoi? Ti beccano, fra, no, butta via tutto quella merda lì, fra. No, tu finisci sulla mala strada, te lo dico io. Te lo dico io, fidati di me. Fidati di Bolla G and the B Street Lovers Band. Lascia stare, fra, non conviene mai. Mettersi nei guai, meglio fare freestyle. Meglio stare in giro, lontano dal giro. Meglio essere fiero, con un lavoro serio. È bello aver contanti che riempiono la tasca. Ma cani condivise, poi ti legano le braccia. San Vittore, il posto c'è. Si fanno un po' più stretti per fare spazio a te. L'economia a pezzi, i prezzi sono alti. Tocca battere i costi per non sfruttare i pasti. L'euro ci ha fottuto e adesso sono cazzi. Ti ammazzi di lavoro per pagare gli affitti. Poi vedi calciatori che guadagnano milioni e noi prendiamo calci senza correre coi palloni. Il lavoro è nero oppure precariato e c'è il lavoro sporco che è chiamato reato. Se finisci sulla mala strada, occhio resta attento, chi sbaglia paga. Se finisci sulla mala strada, occhio resta attento, chi sbaglia paga. Non ti conviene mai rischiare, occhio resta attento, è un mal affare. Non ti conviene mai rischiare, occhio resta attento, è un mal affare. Televisori al plasma e nuovi cellulari. Propaganda alla TV che ti scippano i denari. Se non rincorri il trend sei tagliato troppo fuori. Questo mondo si è corrotto quando ha persi i valori. Più facile spacciare che andare a lavorare. Quelli sono soldi facili, ma chi te lo fa fare? Ho visto amici miei finire al fresco. Ogni momento dentro è un momento che si è perso. Per coltivare i campi, fidati è meglio. Rimani pulito, non commettere lo sbaglio di farti coprire ancora la visuale. Quando senti le sirene è troppo tardi per scappare. Pensa alla tua donna che a casa che ti aspetta. Lavora anche la notte per pagare la bolletta. Rimani te stesso e mandali a cagare. Quelli non sono amici e ti possono rovinare. Se finisci sulla mala strada, occhio resta attento, chi sbaglia paga. Se finisci sulla mala strada, occhio resta attento, chi sbaglia paga. Non ti conviene mai rischiare, occhio resta attento, è un mal affare. Non ti conviene mai rischiare, occhio resta attento, è un mal affare. Vabbè, la prima volta c'è la condizionale, ma la seconda volta c'è il tempo da aspettare. Da regina cedi, appoggio reale. Quanto tempo da aspettare, quanto tempo per star male. Indietro non si torna, ma arriva un flashback. E ogni giorno che ti alzi ti chiedi perché. Ma tu sei ancora in tempo, chi te lo fa fare? Il crimine non paga le bollette da pagare. Arrivano lo stesso, lo sbirro mi ha detto. Corri quanto vuoi, tanto qui ti aspetto. È inutile che sogni, il crimine è perfetto. Tutti i più buoni piani nascondono un difetto. Il difetto è che non smetti e restano le tracce. Se ti beccano una volta non si scordano le facce. Sono quelli come noi che vengono beccati. Quelli con i soldi hanno amici magistrati.